Continuando la nostra intervista per Prossemica, siamo con Elena Di Gioia, direttrice artistica di Emilia Romagna Teatro, che è qui per raccontarci magari un po' il filo conduttore e come è nato anche Prossemica. Allora, come ERT a Bologna, Arena del Sole, siamo molto felici di ospitare in prima assoluta il debutto di Edifici, Vite che non demordono, il nuovo spettacolo della compagnia Laminarie, che ha costruito intorno alla presenza dello spettacolo una vera e propria mappa progettuale, prossemica appunto, che apre e fa rivivere luoghi anche magari poco conosciuti della città di Bologna, e quindi si compone con la visione dello spettacolo. Giovedì 11 dicembre nella Sala Grande dell'Arena del Sole si compone un vero viaggio anche per i cittadini e le cittadine di muoversi nella città intorno a una grande domanda che questo spettacolo pone, cioè qual è l'idea di abitare, come si compongono dei luoghi, che cosa significa abitarli e comporre un'architettura delle relazioni che sappia trasformare lo spazio in un luogo, in un senso di casa, e quindi anche in un senso, in una domanda aperta di che tipo di comunità vogliamo comporre, e soprattutto se questa domanda viene posta con la forza del linguaggio artistico, con il gesto proprio d'arte e di teatro e di Laminarie. Beh, una domanda credo tra le più urgenti anche oggi, quella che ruota intorno all'abitare, e in cui anche con più forza metterci in ascolto anche delle opzioni che gli artisti e le artiste ci consegnano intorno a questa domanda e a che edifici, e anche a quel sottotitolo che ha lo spettacolo, che è molto forte, Vite che non demordono, ecco, anche a come non demordere in percorsi che sappiamo tenaci o nel campo artistico, e tenaci anche in quella preziosa costruzione di comunità che credo anche come ERT, come responsabilità anche di teatro pubblico che siamo, responsabilità che è importante rinnovare quotidianamente, e con gli artisti e le artiste e con i cittadini e le cittadine comporre insieme comunità, un grande edificio teatrale insieme. Appunto, questa riflessione nasce da un po' anche da un'esigenza, come abbiamo detto, e qual è uno di quelli che potrebbe essere l'obiettivo principale o anche quelli che possono essere gli obiettivi secondari di questa rassegna? Beh, intanto pensando allo spettacolo e al debutto di Edifici, per noi come ERT Arena del Sole è anche importante l'attenzione anche a compagnie che nella nostra città di Bologna e dalla città di Bologna, insomma, compongono, nel caso di Laminarie, da 30 anni, ecco, un lungo sentiero di teatro e appunto anche di quella tenacia. È importante essere parte attiva di una mappa di luoghi che connette anche centro e periferie, quindi non solo luoghi aperti, luoghi chiusi o luoghi che si dischiudono appositamente per il progetto, ma è proprio una mappa che intreccia centro e periferia, da Via dell'Indipendenza con l'Arena del Sole alla Cupola Dom al Pilastro, a alcune strade anche nella zona universitaria e altre in cui, con la forza di performance, installazioni, insomma, pensare anche un po' a un viaggio, ecco, teatrale nella città, e a un viaggio, ripeto, intorno a questa grande domanda, perché la parola edifici, credo, almeno per me, contenga a fianco anche un punto interrogativo, cioè molto pragmatico. Come edificare, esatto, un'architettura di relazioni importante. Bene, grazie mille, io direi che siamo a posto così, ti ringrazio e auguro una buona rassegna. Grazie, e ci vediamo all'Arena del Sole in giro per Bologna. Soprattutto.